dan pesi di me con l'arma da uju futurna corso alma fora di purpo pena di poco de la cose pena di poco de la cose se alguien chamando por me contao bien sacudi la buconta, te lembra di poco de mia cuore, te lembra di poco de mia cuore. Mia vita è canata, simbo, mia vita è canata, mia vita è canata, simbo. Mia vida in Canada, Simbo, mia vida in Canada. La cabeza del difunto, la vida na quema pa via di vo. Su maño minca, na alto mar, contra raiva di marón, a la ña vida na vai. Su mal arma di vela, la cabeza del difunto, la vida na quema pa via di vo. Mia vida è Canada, Simbo, mia vida è Canada, mia vida è Canada.